Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Giunse finalmente dalla città la cassa con i vestiti del tenente Drogo. Fra l'altro c'era un mantello nuovissimo, di straordinaria eleganza. Drogo lo indossò e si guardò pezzo a pezzo nel piccolo specchio della propria stanza. Gli parve quello un vivo collegamento con il suo mondo. Pensò con soddisfazione che tutti lo avrebbero guardato, tanto splendida era la stoffa, fiero il panneggiamento che ne risultava. Pensò che non doveva sciuparlo per il servizio di fortezza, nelle notti di guardia, fra le umide mura. Era anche un malaugurio metterlo lassù per la prima volta, quasi ad ammettere che egli non avrebbe avuto occasioni migliori. Pure gli dispiaceva di non farlo vedere in giro e, benché non fosse freddo, volle indossarlo almeno per andare fino dal sarto del reggimento, da cui ne avrebbe comperato un altro di tipo comune. Lasciò quindi la camera e si avviò giù per le scale, osservando, dove la luce lo permetteva, l'eleganza della propria ombra. Tuttavia, man mano che gli scendeva nel cuore della fortezza, il mantello sembrava perdere in qualche modo il suo primo splendore. Drogo, inoltre, si accorse che non riusciva a portarlo con naturalezza, gli pareva una cosa strana, da dare nell'occhio. Ebbe perciò piacere che le scale e i corridoi fossero quasi deserti. Un capitano che finalmente incontrò rispose al suo saluto senza uno sguardo in più del necessario. Neppure i rari soldati voltavano gli occhi a osservarlo. Scese per un'angusta scaletta a chiocciola, tagliata nel corpo di una muraglia, e i suoi passi risuonavano di sopra e di sotto come ci fosse altra gente. Le preziose falde del mantello battevano, oscillando, sulle bianche muffe dei muri. Drogo giunse così ai sotterranei. Il laboratorio del sarto Prosdocimo era appunto allogato in quella cantina. Uno spiraglio di luce scendeva, nelle giornate buone, da una piccola finestretta al livello del suolo, ma quella sera avevano già acceso i lumi. «Buonasera, signor tenente», disse Prosdocimo, il sarto reggimentale, appena lo vide entrare. Nello stanzone solo alcuni piccoli tratti erano illuminati. Un tavolo dove un vecchietto scriveva, il banco dove lavoravano tre giovani aiutanti, e tutt'attorno pendevano flosci con sinistro abbandono da impiccati decine e decine di uniformi, pastrani e mantelli. «Buonasera», rispose Drogo. «Vorrei un mantello. Un mantello da non spendere molto. Vorrei... basta che duri 4 mesi». «Mi lasci vedere», disse il sarto con un sorriso di curiosità diffidente, prendendo un lembo del mantello di Drogo e traendolo verso la luce. Egli era di grado maresciallo, ma la sua qualità di sarto pareva concedergli di diritto una certa ironica familiarità coi superiori. «Bella stoffa! Bella! L'avrà pagata un occhio, immagino, laggiù in città. Non scherzano!» Diede un'occhiata complessiva da uomo del mestiere. Scosse il capo, facendo tremolare le guance piene sanguigne. «Peccato, però!» «Peccato che cosa?» «Peccato che il collo sia così basso. È poco militare.» «Si usa così adesso», fece Drogo con superiorità. «La moda vorrà il collo basso», disse il sarto, «ma per noi militari la moda non c'entra. La moda ha da essere il regolamento. E il regolamento dice: il collo del mantello stretto al collo, foggiato a cintura, alto 7 centimetri. Lei forse crede, signor tenente, che io sia un sartucolo da poco, a vedermi in questo buco?» «Perché?» fece Drogo. «Tutt'altro, anzi. Lei probabilmente crede che io sia un sartucolo da poco. Molti ufficiali, invece, mi stimano, anche in città. E ufficiali di riguardo. Io sono quassù, in via assolutamente provvisoria!» E scandì le due ultime parole come premessa di grande importanza. Drogo non sapeva che cosa dire. «Da un giorno all'altro io aspetto di partire», continuava Prosdocimo. «Se non fosse che il signor colonnello, che non vuole lasciarmi andare...» «Ma che cosa avete voi altri da ridere?» Nella penombra, infatti, si era sentito il riso soffocato dei tre aiutanti. Adesso avevano chinato la fronte, esageratamente intenti al lavoro. Il vecchietto continuava a scrivere, facendo parte a se stesso. «Che cosa c'è da ridere?» ripeté Prosdocimo. Siete dei tipi un po' troppo svelti voi. Un giorno o l'altro ve ne accorgerete. Già, disse Drogo, che cosa c'era da ridere? Sono degli stupidi, disse il sarto. È meglio non badarci. In quel momento si udì un passo scendere dalle scale e comparve un soldato. Prosdocimo era chiamato di sopra dal maresciallo del magazzino vestiario. Mi scusi, signor tenente, fece il sarto. È una faccenda di servizio. Fra 2 minuti sono di ritorno. E seguì il soldato di sopra. Drogo si sedette preparandosi ad aspettare. I tre aiutanti, partito il padrone, avevano interrotto il lavoro. Il vecchietto finalmente levò gli occhi dalle sue carte, si alzò in piedi, si avvicinò zoppicando a Giovanni. «L'ha sentito?» gli chiese con strano accento, facendo un segno a indicare il sarto che era uscito. «L'ha sentito? Sa, signor tenente, da quanti anni è qui alla fortezza?» «Ma non saprei». 15 anni, signor tenente, 15 maledettissimi anni, e continuo a ripetere la solita storia. Sono qui in via provvisoria, da un giorno all'altro aspetto. Qualcuno borbottò al tavolo degli aiutanti. Doveva essere quello il loro abituale oggetto di riso. Il vecchietto non ci badò nemmeno. E invece non si muoverà mai, disse. Lui, il signor colonnello comandante e molti altri resteranno qui fino a crepare. È una specie di malattia. Stia attento, lei, signor tenente, che è nuovo. Lei, che è appena arrivato. Stia attento finché è in tempo. Stare attento a che cosa? Ad andarsene appena può. A non prendere la loro mania, Drogo disse. Io sono qui per 4 mesi soltanto. Non ho la minima intenzione di rimanere. Il vecchietto disse. Stia attento lo stesso, signor tenente. Ha cominciato il signor colonnello Filimore. Si preparano grandi eventi, ha cominciato a dire. Me lo ricordo benissimo, saranno 18 anni. Proprio eventi, diceva. Questa è la sua frase. Si è messo in mente che la fortezza è importantissima, molto più importante di tutte le altre, e che in città non capiscono niente. Si è messo in mente che la fortezza è importantissima e che deve succedere qualche cosa. Drogo sorrise. Che succeda qualche cosa? Vuol dire una guerra? Chi lo sa? Può darsi. Anche una guerra. Una guerra dalla parte del deserto. Dalla parte del deserto, probabilmente, confermò il vecchietto. Ma chi? Chi dovrebbe venire? E cosa vuole che io ne sappia? Non verrà nessuno, si capisce. Ma il signor colonnello comandante ha studiato le carte. Dice che ci sono ancora i tartari, dice. Un resto dell'antico esercito che scorrazza su e giù. Nella penombra si udì un ghignare ebete dei tre aiutanti. «E sono ancora qui che aspettano!» proseguì il vecchietto. «Guardi il signor colonnello, il signor capitano Stizione, il signor capitano Ortiz, il signor tenente colonnello. Ogni anno ha da succedere qualche cosa, sempre così, fino a che li metteranno a riposo!» Si interruppe. Piegò la testa da un lato, come per ascoltare. «Mi pareva di sentire dei passi», disse. Ma non si udiva nessuno. «Non sento niente», fece Drogo. «Anche Prostocimo», disse il vecchietto. «È semplice maresciallo, sarto reggimentale, ma si è messo con loro, anche lui aspetta, sono già 15 anni». «Ma lei non è persuaso, signor tenente? Lo vedo, eh? Lei sta zitto e pensa che sono tutte storie». Poi aggiunse, quasi supplichevole, «Stia attento, le dico. Lei si lascerà suggestionare e anche lei finirà per restare. Basta guardarla negli occhi». Drogo taceva. Gli pareva indegno di un ufficiale confidarsi con un così povero uomo. Poi disse, «Ma lei? Lei cosa fa allora?» «Io?» fece il vecchietto. «Io sono suo fratello. Sto qui a lavorare con lui». «Suo fratello? Suo fratello maggiore?» «Già», il vecchietto sorrise. «Fratello maggiore. Anch'io ero militare una volta. Poi mi sono rotto una gamba. Sono ridotto a questo». Nel silenzio sotterraneo, Drogo allora sentì i colpi del proprio cuore che si era messo a battere forte. Dunque anche il vecchietto rintanato nella cantina a fare conti, anche quell'oscura e umile creatura aspettava un destino eroico. Giovanni lo fissava negli occhi. E l'altro scosse un poco la testa, con amara mestizia, come a significare di sì, che non c'era proprio rimedio. «Così siamo fatti», pareva dire, «e mai più guariremo». Forse perché in qualche parte delle scale era stata aperta una porta, adesso si udivano, filtrate dai muri, lontane voci umane di interminabile origine. Ogni tanto cessavano, lasciando un vuoto, e poco dopo riaffioravano ancora, andavano e venivano, come lento respiro della fortezza. Ora Drogo finalmente capiva. Egli fissava le ombre multiple delle uniformi appese, che tremolavano all'oscillare dei lumi, e pensò che in quel momento preciso il colonnello, nel segreto del suo ufficio, aveva aperto la finestra verso il nord. Era certo, in un'ora così triste come quella per il buio e l'autunno, il comandante della fortezza guardava verso il settentrione, verso le nere voragini della valle. Dal deserto del nord doveva giungere la loro fortuna, l'avventura, l'ora miracolosa che almeno una volta tocca a ciascuno. E per questa eventualità vaga, che pareva farsi sempre più incerta col tempo, uomini fatti consumavano lassù la migliore parte della vita. Non si erano adattati alla esistenza comune, alle gioie della solita gente, al medio destino. Fianco a fianco vivevano con l'eguale speranza, senza mai farne parola, perché non se ne rendevano conto, o semplicemente perché erano soldati, col geloso pudore della propria anima. Drogo aveva capito il loro facile segreto, e con sollievo pensò di esserne fuori, spettatore incontaminato. Tra 4 mesi, grazie a Dio, egli li avrebbe lasciati per sempre. Gli oscuri fascini della vecchia bicocca si erano ridicolmente dissolti, così pensava. Ma perché il vecchietto continuava a fissarlo con quell'espressione ambigua? Perché Drogo sentiva il desiderio di fischiettare un poco, di bere vino, di uscire all'aperto, forse per dimostrare a se stesso di essere veramente libero e tranquillo? Ecco i nuovi amici di Drogo: tenente Carlo Morel, Pietro Angustina, Francesco Grotta, Max Lagorio. Essi sono seduti con lui alla mensa, a quest'ora vuota. Solo un famiglio rimane, appoggiato allo stipite di una lontana porta, e i ritratti degli antichi colonnelli, allineati sui muri attorno, immersi nella penombra. 8 bottiglie stanno nere sulla tovaglia, nel disordine del pranzo finito. Sono tutti in qualche modo eccitati, un po' dal vino, un po' dalla notte, e quando le loro voci tacciano, si ode fuori la pioggia. Festeggiano il conte Max Lagorio, che all'indomani parte dopo 2 anni di fortezza. Lagorio disse: «Angustina, se vieni anche tu, ti aspetto», lo disse nel suo solito tono di scherzo, ma si capiva che era vero. Anche Angustina aveva finito i 2 anni di servizio, ma non voleva partire. Angustina era pallido e sedeva con la sua perenne aria di distacco, come se non si interessasse affatto di loro. Fosse lì per un puro caso. «Angustina!» ripeté Lagorio quasi con un grido ai confini dell'ubriachezza. «Se vieni anche tu, ti aspetto. Sono disposto ad aspettare 3 giorni!» Il tenente Angustina non rispose, facendo un lieve sorriso di sopportazione. La sua uniforme azzurra, stinta dal sole, spiccava fra le altre per un'indefinibile trasandata eleganza. Lagorio si rivolse agli altri, a Morel e a Grotta e a Drogo. «Diteglielo anche voi!» e pose la destra sulla spalla di Angustina. «Gli farebbe bene venire in città!» «Mi farebbe bene?» chiese Angustina come incuriosito. «In città staresti meglio! Io sto benissimo!» fece asciutto Angustina. «Non ho bisogno di cure!» «Non ho detto che tu abbia bisogno di cure!» «Ho detto che ti farebbe bene!» Così disse Lagorio e si udì fuori nel cortile cadere la pioggia. Angustina si lisciava con 2 dita i baffetti. Era annoiato, si vedeva. Lagorio riprese: «A tua mamma, ai tuoi, tu non pensi! Immagina quando tua mamma... Mia mamma saprà adattarsi!» rispose Angustina con amaro sottinteso. Lagorio capì e cambiò discorso. «E Angustina, ci pensi, capitare dopodomani dalla Claudina?» Sono 2 anni che non ti vede. La Claudina? Fece Angustina svogliatamente. Ma che Claudina? Io non mi ricordo. Già non ti ricordi. Con te non si può parlare di niente stasera, ecco com'è. Non sarà mica un mistero, no? Ti si vedeva insieme tutti i giorni. Ah, disse Angustina per mostrarsi gentile. Adesso mi ricordo. Ah già, la Claudina. Figurati, non si ricorderà nemmeno che esisto. Ah, va là. Sappiamo bene che tutte vanno matte per te. Non fare il modesto adesso, esclamò Grotta. E Angustina lo fissò senza battere ciglio. Colpito, si vedeva, da tanta piattezza. Tacquero. Fuori, nella notte, sotto la pioggia autunnale, camminavano le sentinelle. L'acqua scrosciava sulle terrazze, gorgogliava nelle gronde, colava giù per le mura. Fuori era notte fonda e Angustina ebbe un piccolo colpo di tosse. Pareva strano che da un giovane così raffinato potesse uscire un suono tanto sgradevole. Ma egli tossiva con una sapiente misura, abbassando ogni volta la testa, quasi a indicare che lui non poteva impedirlo. In fondo era una cosa non sua, che per correttezza gli toccava subire. Così trasformava la tosse in una specie di vezzo capriccioso, degno di essere imitato. Pure si era fatto un silenzio penoso, che Drogo sentì il bisogno di spezzare. «Di, Lagorio», domandò. «A che ora parti domani?» «Verso le 10, credo». «Volevo partire prima, ma ho ancora da congedarmi dal colonnello». «Il colonnello si alza alle 5, estate e inverno». «Alle 5? Non ti farà certo perdere tempo». Lagorio rise. «Ma sono ben io che non mi alzo alle 5. Almeno per l'ultima mattinata voglio fare i miei comodi. Non mi corre dietro nessuno». «Per dopodomani sei arrivato, allora», notò Morel con invidia. Lagorio disse. «Mi par fino impossibile, vi giuro». «Che cosa impossibile?» «Di essere in città fra 2 giorni. E per sempre anche». Angustina era pallido, ora non si lisciava più i baffetti, ma fissava dinanzi a sé la penombra. Gravava ormai nella sala il sentimento della notte, quando le paure escono dai decrepiti muri e l'infelicità si fa dolce, quando l'anima batte orgogliosa le ali sopra l'umanità addormentata. Gli occhi vitri dei colonnelli dai grandi ritratti esprimevano eroici presagi, e fuori sempre la pioggia. «Ti immagini?» fece Lagorio senza misericordia ad Angustina. «Dopodomani sera a quest'ora io sarò magari da Consalvi, gran mondo, musica, belle donne». «Bel gusto», rispose con sprezzo Angustina. «Oppure», continuava Lagorio, «con le migliori intenzioni, unicamente per persuadere l'amico, ecco, forse è meglio andrò dai Tron, i tuoi zii, c'è gente simpatica, e si giuoca da signori, direbbe Giacomo. Ah, un bel gusto, disse Angustina. Comunque sia, fece Lagorio, dopodomani io sarò a divertirmi e tu sarai di servizio. Io sarò a spasso per la città, e rideva all'idea. E a te arriverà il capitano di ispezione. Novità zero, la sentinella Martini si è sentita male. Alle ore 2 il sergente ti sveglierà. Signor tenente, è l'ora dell'ispezione. Ti sveglierà alle ore 2 e poi giuralo alla stessa identica ora, positivamente, io sarò in letto con la rosaria. Erano le fatue inconsce crudeltà di Lagorio a cui tutti erano abituati. Ma dietro le sue parole comparve ai compagni l'immagine della lontana città con i suoi palazzi e le chiese immense, le aeree cupole, i romantici viali lungo il fiume. A quell'ora, pensavano, doveva esserci una sottile nebbia e i fanali davano una tenue luce giallastra. A quell'ora nere coppie per le vie solitarie, grida di cocchieri dinanzi alle vetrate accese dell'opera, eche di violino e di risa, voci di donna dai tetri portali delle ricche case, finestre illuminate a incredibili altezze fra il labirinto dei tetti. L'affascinante città con i loro sogni di giovinezza, le sue ancora sconosciute avventure. Tutti ora guardavano senza farsi accorgere la faccia di Angustina, greve di stanchezza inconfessata. Non erano lì, capivano, per festeggiare Lagorio in partenza. In verità essi salutavano Angustina perché lui solo sarebbe rimasto. A uno, dopo Lagorio, venuto il turno, anche gli altri se ne sarebbero andati, Grotta, Morel e prima ancora Giovanni Drogo, che aveva appena 4 mesi da fare. Angustina invece sarebbe rimasto. Non riuscivano a capire il perché, ma lo sapevano bene. E benché sentissero oscuramente che anche questa volta egli obbediva al suo ambizioso stile di vita, non erano più capaci di invidiarlo. Pareva in fondo un'assurda mania. E perché Angustina, maledetto snob, adesso ancora sorride? Perché, malato com'è, non corre a fare i bagagli, non si prepara alla partenza, e invece fissa dinanzi a sé la penombra? E che cosa pensa? Quale segreto orgoglio lo trattiene alla fortezza? Anche lui, dunque. Guardalo, Lagorio, tu che gli sei amico, guardalo bene finché sei in tempo. Fa che il suo volto resti nella tua mente così com'è questa sera. Il naso sottile, gli sguardi atoni, quell'ingrato sorriso. Forse un giorno capirai perché non ti ha voluto seguire e saprai ciò che era chiuso dietro la sua immobile fronte. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.